Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Buona giornata, gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori. Ben ritrovati, questo è Nessun Luogo Lontano, prima puntata dell'ultima settimana di programmazione. E anche questa settimana saremo un po' come un'erma bifronte, un occhio sulla stretta attualità e l'altro invece, come amiamo dire noi, che monta il grand'angolo per affrontare i grandi temi dell'attualità. Al lavoro anche quest'oggi ci sono con me Eleonora Aragona, Antonio Talia, Silvia Mannati e oggi invece a dare musica e ritmo alla puntata c'è Valeria Bernardi. Anche quest'oggi, come d'abitudine, potete commentare o porre domande via sms 349-238-6666, il numero, ve lo ricordo, vale anche per il WhatsApp. Su Twitter cercateci NessunLuogo24, ovvero il mio personale account che è Giampaz, e infine su Facebook siamo NessunLuogoLontano-Radio24. Non solo la BBC, ma tutti i network internazionali stanno dando ampissimo spazio all'udienza che Dilma Rousseff in queste ore sta tenendo di fronte al Senato brasiliano. L'accusa, lo ricordiamo, è quella di impeachment, avrebbe alterato i conti pubblici e per quello da metà maggio circa è stata sospesa nelle sue funzioni. Oggi sta parlando, domani o dopodomani ci dovrebbe essere il voto e quindi la storia brasiliana potrebbe vivere una pagina inedita e dai risvolti imprevedibili. Di questo vi parleremo nell'ultima parte di Nessun Luogo, perché adesso, come vi dicevo, montiamo il grand'angolo e affrontiamo un tema molto molto delicato. La riflessione che vi proponiamo oggi è quella sul costo della pena di morte. In decine di paesi nel mondo la pena capitale è applicata per una svariata serie di crimini. È realmente efficace? Ha realmente un effetto deterrente? Le società dove esiste la pena di morte sono società con meno crimini? E quanto costa economicamente e quanto costa socialmente la pena di morte? In alcuni casi le statistiche non sono precise perché alcuni paesi non le forniscono, vedete il caso cinese per esempio, però ai primi di agosto è stato rilasciato un approfondito report di Nessuno Tocchi Caino, una lega internazionale di cittadini e parlamentari che lotta per l'abolizione della pena di morte nel mondo. Beh, questo report fotografa il fenomeno a livello mondiale con grande precisione. Nel 2015 i paesi che hanno fatto ricorso alle esecuzioni capitali sono stati 25 rispetto ai 22 del 2014, leggo testualmente dal report, mentre erano stati 26 nel 2008. Nel 2015 le esecuzioni sono state 4.040 a fronte delle 3.576 del 2014, mentre nel 2008 erano state 5.735. Il significativo aumento delle esecuzioni nel 2015 rispetto al 2014 si giustifica con l'incremento registrato in particolare in tre paesi: Iran, Pakistan e Arabia Saudita. D'altra parte, lo stesso report segnala un trend, diciamo, divergente. Dall'altro, la notizia buona si conferma che un numero progressivo di paesi vanno verso l'abolizione o legale o di fatto della pena di morte. Allo stesso tempo, però, aumentano i paesi che fanno ricorso alla pena capitale e aumenta il numero delle esecuzioni. Come si può leggere questo fenomeno? Giro immediatamente la domanda a Elisabetta Zamparutti di Nessuno Tocchi Caino. Zamparutti, buongiorno e benvenuta a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno a te e buongiorno agli ascoltatori. Si spiega questa, diciamo, doppia faccia della pena di morte: da un lato l'aumento che si continua a registrare del numero di paesi che a vario titolo rinunciano alla pratica della pena di morte, dall'altro però l'aumento del numero delle esecuzioni capitali, in particolare in tre paesi: in Iran, in Pakistan e in Arabia Saudita. Sì. Questo perché sono in corso due guerre che si combattono anche con la pena di morte, e che sono la guerra al terrorismo e la guerra alla droga. Infatti quello che è accaduto in particolare nei tre paesi che abbiamo ricordato è appunto un incremento del ricorso alla pena di morte per contrastare l'uso, il consumo, il traffico di droga. Questo in particolare riguarda l'Iran, dove oltre il 65% delle esecuzioni avviene proprio per questo tipo di reati, sì. E anche l'Arabia Saudita. Però l'emergenza terrorismo è all'origine non solo di un aumento delle esecuzioni in alcuni paesi, ma anche della ripresa della pena di morte, come ad esempio è avvenuto anche in Africa, in particolare in Chad. Quindi sono le emergenze che si vogliono combattere anziché con più Stato di diritto, con la sua abdicazione, quindi con il ricorso a quella pena più cruenta e violenta, che è appunto la pena di morte. Sì. Peraltro, Elisabetta Zamparutti, hai citato il caso delle Filippine. Noi ci siamo occupati approfonditamente del presidente controverso Duterte, che ha lanciato questa lotta senza quartiere alla droga, aveva più volte proposto la reintroduzione della pena capitale, poi in realtà, e mi scuso per il linguaggio forse un po' prosaico, se l'è un po' reintrodotta da sé, perché svariate esecuzioni extragiudiziali sono in corso nell'arcipelago, compreso l'operazione di questi famigerati squadroni della morte, che pare siano direttamente un'emanazione delle forze di polizia filippine. Ma per dire questo, che la lotta senza quartiere a droga e a terrorismo ha portato in alcuni casi a delle distorsioni. In estrema sintesi, vorrei da te uno slogan, se possibile, Elisabetta Zamparutti, di Nessuno Tocchi Caino. Perché siete contro la pena di morte? Perché è espressione di una giustizia vendicativa, come tale violenta, che non fa bene né a Caino, ma neanche ad Abele. È piuttosto per aver cura anche di Abele, una giustizia che sappia essere riconciliativa, riparativa, più che appunto retributiva, come quella legata al sistema della pena di morte. Ma dobbiamo considerare anche Caino, che è pur sempre un essere umano, che ha pur sempre una sua dignità e che può pur sempre mutare anche nel tempo, anche nel corso dell'espiazione della pena. Quindi fine pena mai, né una pena di morte che sopprime fisicamente una persona, ma neanche, per quanto ci riguarda, quella pena dell'ergastolo, che mette la parola fine alla vita civile di un detenuto. Elisabetta Zamparutti, stai con noi, perché adesso iniziamo ad analizzare uno dei casi forse più eclatanti, anche più controversi, perché andiamo negli Stati Uniti, dove 30 stati ancora applicano la pena di morte. E tra i tanti artisti che hanno preso posizione, e lo sentite dalle sue rappate, vi era Christopher Lee Rios, morto a 29 anni nel 2000, era conosciuto come Big Pun, che è la versione abbreviata di Big Punisher. Il suo primo album era stato proprio Capital Punishment. Allora, la situazione negli Stati Uniti è particolarmente interessante, perché da tutti viene celebrata come una grande democrazia, però su 30 stati degli Stati Uniti d'America ancora viene applicata la pena capitale. Questo è il prodotto di una legislazione che non è esattamente omogenea. In questi 30 stati la pena di morte è legale ed è prevista dal governo federale e dall'esercito. Però, per disciplinare l'esercizio, ognuno di questi soggetti ha emanato leggi diverse. E in buona sostanza vi sono due processi concomitanti. Sentite come fotografa la situazione, soprattutto dal punto di vista giuridico, Robert Dunham, che è il direttore del Death Penalty Information Center. Sentite. Hanno molte caratteristiche simili. La prima parte del processo è la stessa per entrambe le tipologie di casi e serve per decidere se l'imputato è colpevole o innocente. Poi, per i crimini che prevedono la pena di morte, si passa a un altro processo, come abbiamo già detto, in cui accusa e difesa portano entrambe l'attenzione dei giudici i motivi per cui l'imputato dovrebbe o meno essere punito con la morte. In un processo ben svolto, la difesa analizza in modo approfondito l'intera vita e il background dell'accusato per capire se ci sono dei fattori che potrebbero contribuire a rendere

così rilevanti che attengono alla dignità della persona umana, io ho delle grandi riserve a sottoporre ad un sondaggio, sì, o addirittura a un referendum una questione come introduzione della pena di morte sì, introduzione della pena di morte no. Sì. Dopodiché, sai, quando si fanno i sondaggi bisogna anche sempre valutare, avendo tu stesso sottolineato come anche questo intervento dell'ascoltatore fosse di segno emotivo, il momento in cui lo fai, perché è evidente che se si conduce un sondaggio all'indomani di fatti gravissimi e comunque poi dipende anche da come si pone la domanda, certo, c'è un esito piuttosto che un altro, quindi ci vuole una grande cautela e, ripeto, su questioni così rilevanti che attengono la dignità della persona umana, il rispetto dei diritti umani, ci vuole, insomma, bisogna stare molto attenti. Cautela, credo che Elisabetta, perdonami, ma credo che cautela sia la parola più giusta. Cautela nell'analisi, cautela nel racconto. Però dicevi, i sondaggi sono difficili, però gli americani, che su questo sono maestri, è una democrazia, come dire, controversa, con dei lati oscuri, l'abbiamo anche raccontata in alcune puntate, in nessun luogo è lontano. A Robert Dunham abbiamo chiesto, studioso, esperto di pena di morte, abbiamo chiesto come viene percepita la pena di morte dai cittadini. I politici la impiegano come parte del programma elettorale o per essere rieletti alla fine, in buona sostanza. È una leva elettorale anche questa, sentite. Fino a qualche tempo fa, il candidato che in una competizione elettorale si opponeva apertamente alla pena di morte, poi veniva quasi certamente sconfitto. Tra gli anni 80 e i primi anni 90, il sostegno pubblico alla pena di morte si aggirava intorno all'80%. Questo secondo il Gallup Poll, che negli Stati Uniti è il principale sistema di rilevamento dell'opinione pubblica. Ma oggi, secondo i risultati più recenti del Gallup Poll, il sostegno pubblico alla pena di morte è sceso a quota 61%, mentre secondo altri sondaggi sarebbe addirittura arrivato a quota 55%. 56%. Inoltre, l'aspetto che trovo più interessante è che se in questi sondaggi si pongono domande più accurate, fornendo al pubblico una scelta più ampia, chiedendo ad esempio quale pensa che sia la pena più appropriata per un omicidio, la pena di morte o l'ergastolo senza possibilità di sconti, salta fuori che la maggioranza degli americani preferirebbe abolire la pena di morte per rimpiazzarla con una forma di reclusione a vita o comunque di lunga durata. Quindi, se possiamo dire che negli anni 80 e nei primi 90 il candidato contro la pena di morte usciva quasi certamente sconfitto dalle elezioni, oggi non è più così. Ci sono alcuni posti negli Stati Uniti dove i candidati stanno provando a usare la pena di morte per distogliere l'attenzione da altri problemi. La governatrice del Nuovo Messico, Susana Martinez, ad esempio, sta cercando di reintrodurre la pena di morte, ma i suoi avversari politici sostengono che lo stia facendo perché l'economia dello Stato è in difficoltà e la gestione Martinez della situazione sta riscontrando uno scarso gradimento da parte degli elettori. Sembra che la questione pena di morte, inoltre, non avrà grandi effetti sulle elezioni nel Nuovo Messico, ma questo rimane ancora da vedere. In generale, negli Stati Uniti, il sostegno alla pena di morte è in declino e sta calando in qualsiasi segmento della società americana. Se guardiamo la situazione dal punto di vista dell'orientamento politico, una maggioranza di persone in tutti i partiti sostituirebbe la pena di morte con un'altra condanna, anche se la maggioranza dei repubblicani e degli indipendenti, davanti alla domanda secca «Lei approva la pena di morte?», risponderà affermativamente. Tra le fasce più giovani è più probabile riscontrare un rifiuto verso la pena di morte e tutto questo suggerisce che in generale il consenso per la pena capitale è in calo. Insomma, in ogni gruppo razziale o confessione religiosa o genere sessuale e tra qualsiasi orientamento politico, che si tratti di liberali, moderati, conservatori o molto conservatori, il sostegno alla pena di morte è sicuramente in calo. E se negli Stati Uniti il dibattito sulla pena di morte è aperto, è scevro, ci sono meccanismi democratici che funzionano, che sono virtuosi, e sono quelli che fanno a dire alla Clinton sottovoce in campagna elettorale, beh, sarei contenta se la Corte Suprema abolisse la pena di morte negli altri 30 stati, più muscolare come immaginate invece la posizione di Trump, vi sono altri paesi dove non esiste esattamente la stessa trasparenza. Uno è il caso dell'Arabia Saudita, e ci arriviamo, l'altro è il caso della Cina, ne parliamo tra poco. L'altro, il terzo caso, è quello dell'Iran. Perché il punto non è soltanto essere condannati a morte per un crimine efferato, e avviene appunto in alcuni casi, ma è il punto anche essere condannati a morte per crimini non violenti, e allora ci si chiede se sia particolarmente odiosa una condanna a morte in quel caso. E se io fondassi una band metal, per esempio, e scrivessi un pezzo che si intitola I Am Your God, e come potete immaginare nella Repubblica Islamica Iraniana questo può essere un problema. Ebbene, l'hanno fatto i tre, che sentite in sottofondo, arrestati nel febbraio del 2016 dai guardiani della rivoluzione, e adesso devono affrontare le accuse di blasfemia, propaganda contro il sistema, oltre a quella di aver fondato una band illegale. Allora adesso facciamo una piccola pausa, poi però torniamo a parlare di pena di morte e Iran, perché lì il caso è particolarmente complesso. A tra pochissimo. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Nessun luogo è lontano. Ben ritrovati, gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori, in questo momento di riflessione sulla convenienza della pena di morte. Quanto costa economicamente, quanto costa socialmente, se è vero che il trend dei paesi che la stanno abbandonando è in crescita, ma se è anche vero che in alcuni casi, in alcune situazioni, c'è un maggiore ricorso alla pena capitale. Su questo ci stiamo interrogando quest'oggi a Nessun Luogo Lontano, e siamo andati in Iran. Sentite cosa dice Roya Burmand, che ha lei stessa ha fondato una fondazione, scusate il gioco di parole, che porta il suo nome, promuove il rispetto dei diritti umani e la democrazia in Iran, lo deve fare, ai noi, dagli Stati Uniti. Sentite come descrive la legislazione sulla pena di morte in Iran. In Iran, more than 200 acts. In Iran sono state più di 200 le condanne alla pena di morte. Si ricorre alle esecuzioni capitali per reati a sfondo sessuale, di droga, incluso il possesso di piccole quantità, per casi di omicidio e anche per crimini detti di corruzione sulla terra. La pena di morte, inoltre, può essere applicata a reati legati alla sicurezza nazionale. Le leggi che regolano questo campo sono molto vaghe, contemplano infatti una serie di altri aspetti che vanno dal parlare con le potenze straniere alla propaganda contro lo Stato, publicity against the state, o ancora all'organizzazione di qualsiasi congrega religiosa indipendente. L'interpretazione è vasta. La cosiddetta corruzione sulla terra è un altro crimine per cui un gran numero di persone, da diversi stili di vita, sono state uccise. Un condannato per questo crimine può essere una prostituta, un attivista politico. Inoltre, questo reato può riguardare anche atti che non piacciono allo Stato, come nel caso della cosiddetta corruzione sulla terra. E con la voce di Roya Burmand abbiamo aperto il capitolo tutto dedicato all'Iran e alla pena di morte in questo paese. Elisabetta Zamparutti, che so che deve scappare perché ha altri impegni, con te apro brevissimamente, lo chiudiamo, l'ultimo capitolo, l'ultima domanda. Con te, esiste un caso particolarmente virtuoso dal vostro punto di vista, in paese che avrebbe dovuto applicare la pena di morte ma poi ha trovato un modo di risoluzione differente? Io ho trovato estremamente forte il caso del Ruanda. Il caso del Ruanda è quello di un paese nel cuore dell'Africa, che era stato dilaniato nei primi anni 90 da un terrificante genocidio, al termine del quale chi quel paese lo doveva governare e doveva anche assicurare, per quanto possibile, giustizia rispetto a quanto era accaduto. Sì. E la prima riflessione che ha fatto di fronte alle cifre terrificanti di morte era quella che, se avesse dovuto applicare la pena di morte per far giustizia dei milioni di morti che c'erano stati, avrebbe questo significato mandare a morte quasi popolazione che rimaneva. Sì. E quindi uno dei primi atti è stato proprio quello di abolire la pena di morte. Peraltro la pena capitale è una pena che è stata, possiamo dire, importata in Africa con il periodo del colonialismo, che non appartiene a quella cultura, tant'è che proprio grazie al recupero di tradizioni basate su forme di giustizia riconciliativa, il Ruanda è poi riuscito ad incardinare dei processi in quelle che sono delle comunità di villaggio, dove attraverso un tentativo di ripristino di un dialogo tra vittime e carnefice si è cercato di assicurare una giustizia che fosse anche riconciliativa, all'interno della quale certamente la pena di morte non ci stava per nulla. Ecco, io credo che a questo esempio noi dovremmo continuare a guardare e da questo esempio anche riflettere su come noi stessi, paesi cosiddetti occidentali, democratici ed evoluti, continuiamo ancora a dire di voler fare e assicurare giustizia. Grazie mille. Elisabetta Zamparutti, Nessuno Tocchi Caino, buona giornata e buon lavoro, Elisabetta. Grazie a voi. (349) 238 6666, sms e whatsapp. C'è Giulio da Roma che dice: ritengo giusta la pena di morte per quei terroristi che hanno commesso stragi, non come deterrente ma come difesa sociale, per evitare che vengano liberati e poi possano commettere altre stragi. Antonio invece dice: se le carceri diventano scuole è più facile abolire la pena di morte, credo invocando un sistema di riabilitazione più efficace. C'è poi un altro ascoltatore che sconsolato dice: dimenticavo, aspetto una puntata sul fatto che in Italia in particolare ci sono persone che incontrano gli assassini dei propri cari o incontrano i propri sequestratori. A parte il fatto che questo programma si concentra sugli esteri, ma lì probabilmente l'ascoltatore fa riferimento a una distorsione del sistema punitivo e carcerario italiano. Questo non attiene alla pena di morte. Se l'ergastolo ad esempio fosse rispettato, se la carcerazione fosse rispettata nei termini dettati dalla legge, probabilmente nessuno dovrebbe incontrare l'assassino del proprio caro per strada, non in tempi brevi. 349-238-6666. Voglio però tornare in Iran, perché analizzare i diversi casi e i diversi paesi nel mondo è utile per capire dove sta andando questa umanità. Sentite quali sono i costi sociali ed economici della pena di morte in Iran, perché vi sono delle dinamiche precipue del paese, dalla voce di Roya Burmand. The death penalty has had a history of over the past few decades. La legislazione sulla pena di morte è cambiata negli ultimi 20 anni. I costi sociali sono stati estremamente alti. L'elite politica del paese negli anni 80 è stata portata ad abbandonare le organizzazioni politiche, che erano per la maggior parte ideologizzate e completamente paralizzate. I costi sociali sono stati quindi molto importanti in termini di vita civile e di pluralismo democratico. Anche oggi, nelle regioni in cui vivono le minoranze, come il Kurdistan, dove risiedono molti sunniti, curdi e arabi, e in diverse parti del paese, la pena di morte impedisce di fatto l'attivismo sociale pacifico. Le conseguenze sono state una tendenza all'omertà della società e una radicalizzazione della gente. Non si possono fare neanche indagini appropriate, l'accesso a queste zone infatti non è molto facile. Attivisti culturali vengono condannati con l'accusa di aver violato la sicurezza nazionale, proprio alla stregua delle persone che hanno piazzato bombe o attaccato guardie nelle zone di confine. Su questo fronte è stata una catastrofe. Di recente il numero delle esecuzioni è salito di nuovo. Lo scorso anno la mia organizzazione ha registrato circa 1050 esecuzioni. Negli anni scorsi erano state tra le 700 e le 900. E questo secondo i dati che abbiamo raccolto. Ma sappiamo che questi numeri non sono particolarmente accurati, dato che lo Stato non annuncia mai tutte le esecuzioni. La maggior parte di questi condannati è accusata di trafficare droga. Questo è un disastro, perché ciò che porta queste persone a spacciare è la povertà, almeno secondo quanto abbiamo scoperto parlando con i loro familiari, sempre che siano colpevoli, perché tra l'altro alcuni si professano innocenti. Molti di questi non hanno avuto un avvocato o una qualsiasi assistenza legale, se non scarsa. Per lo più è povera gente, non sono a capo del traffico e sono persone che stavano nel posto sbagliato al momento sbagliato. Provengono da famiglie svantaggiate, vengono messe in prigione e vengono loro confiscate le proprietà. E questo significa lasciare 5 o più persone senza qualcuno che le mantenga. Questo è un circolo vizioso che si ripete sempre. La situazione dei poveri non è stata migliorata, così come il mercato del lavoro. In molti casi, i sottoposti a trattamenti contro la dipendenza sono stati ammassati a centinaia nei centri di detenzione. Sono stati frustati, trattenuti e costretti a disintossicarsi. Hanno dovuto scegliere tra l'essere mandati in prigione e la disintossicazione. Il risultato è stato che non appena sono usciti, hanno ricominciato a drogarsi. La vera radice del problema non è stata mai risolta. In molti, parlando della questione, hanno detto che uccidere queste persone non stia funzionando. Il problema della droga è più serio che mai. C'è stato un aumento almeno dell'8% annuo. I condannati per droga in Iran nei primi anni della rivoluzione, o negli anni immediatamente successivi, erano circa il 5% del totale. Adesso rappresentano il 6-7% della popolazione carceraria. Ogni anno, secondo i dati che forniscono, 700.000-800.000 persone vengono arrestate e incarcerate per reati legati alla droga. L'attenzione e le pressioni internazionali sono importanti. Si parla di rimuovere la pena di morte per crimini del genere. La nuova legge non sarebbe perfetta perché li condannerebbe all'ergastolo, ma almeno salverebbe loro la vita, dandoci il tempo di fare altri passi in avanti. Ci sono però delle sacche di resistenza al cambiamento tra i leader delle repubbliche islamiche. Gli alti livelli non danno ascolto agli esperti e a chi lavora alla prevenzione e al controllo di questi crimini. Quindi credo che dovremmo chiederci quale sia il vero scopo di queste esecuzioni e se l'obiettivo sia veramente il contrasto al traffico di droga. And so we have to ask, what is the purpose of this execution? You know, is this really about drugs? E questa era Roya Burmand, direttore della fondazione che prende il suo nome e che promuove il rispetto dei diritti umani e della democrazia in Iran. Ci ha parlato dagli Stati Uniti. Adesso cambiamo pagina. Vi avevo anticipato che esiste un grande buco nero anche nelle statistiche di Amnesty, di Human Rights Watch e dello stesso Nessuno Tocchi Cain. Quel buco nero si chiama Cina. La voce che avete sentito è quella della presentatrice Ding Yu, presentava un programma in Cina che si chiamava Intervista prima dell'esecuzione. Andava in onda in un canale della provincia di Henan. È una serie che è andata in onda dal 2006 al 2012, spesso interviste realizzate poco prima, poche ore prima dell'esecuzione della condanna. Lo scopo era la deterrenza, poi dopo essere andata in onda 6 anni la serie è stata sospesa. Questo esperimento televisivo è particolarmente intrigante, particolarmente interessante nel momento in cui ci accingiamo a capire l'utilità della pena di morte. Adesso andiamo a vedere lo stato del traffico sulle strade italiane e poi vi introduco il prossimo ospite. Nessun luogo è lontano. Ben ritrovati in questo lungo approfondimento di Nessun Luogo Lontano sulla convenienza, tra virgolette, sociale, economica della pena di morte. Apriamo il buco nero che si chiama Cina. Dico buco nero perché molto spesso i dati e le statistiche proprio non escono. Ci soccorre in questa analisi quello che si riesce a fare Simone Pieranni della redazione esteri del Manifesto, fondatore di China Files. Simone, buona giornata e ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno a voi. Allora Simone, qual è il problema della Cina? Perché non si sa esattamente quanti condanne a morte avvengano nel paese? Allora, perché semplicemente è un segreto di Stato e quindi, come tante altre cose in Cina, lo Stato stesso non fornisce sostanzialmente numeri ufficiali. Ci sono delle stime che vengono fatte dalle associazioni che avete ricordato voi poco fa, Amnesty, Human Rights Watch, eccetera. Si parla presumibilmente di migliaia, presumibilmente all'anno, sicuramente molte centinaia. Sì. E in realtà ci sono due dati, a mio avviso, particolarmente interessanti. Il primo ha a che vedere proprio con una progressione, comunque, per certi versi, che c'è stata verso, diciamo, non dico l'abolizione, ma verso una diminuzione comunque dei reati e delle casi attraverso i quali viene applicata la pena di morte. Sì. Probabilmente anche a causa proprio delle campagne internazionali che sono state fatte. Ad esempio nel 2007 la Corte Suprema è stato stabilito che debba rivedere

appunto il Senato aveva avviato questo procedimento. Sì. Naturalmente i costituzionalisti sono divisi, come è sempre stato nell'ultimo anno, tra chi dice che effettivamente lei non abbia commesso reati che possano determinare un impeachment e altri che invece sostengono di sì. Lei, ricordiamo, il reato da lei commesso è stato quello di correggere in qualche modo, abbellire i conti del bilancio pubblico. Sì. Questo però lo hanno sempre fatto tutti i presidenti e anche in Europa viene con degli escamotage, viene un'operazione che viene effettuata. Ora, di certo quella di Dilma Rousseff è una sconfitta politica, perché comunque lei non ha più l'appoggio di buona parte, di gran parte dell'elettorato che l'ha sostenuta, complice anche la crisi economica che ha investito il Brasile. E insomma, vediamo, domani o dopodomani potrebbe esserci l'atto conclusivo di questo tramonto dal sapore fortemente politico, evidentemente. Grazie mille Roberto Darin, grazie, inviato del Sole 24 Ore, buona giornata, buon lavoro. Abbiamo un minuto, titoli di coda con grande calma. Con i quali ringrazio Eleonora Aragona, Antonio Talia, Silvia Mannati che hanno confezionato con me questa puntata di Nessun Luogo, Valeria Bernardi che le ha dato la musica e il ritmo giusti, voi per essere stati all'ascolto. Vi ricordo la replica questa sera alle 21, ma se vi siete persi il tema di quest'oggi, radio24.it, scaricate il podcast, ovvero l'appuntamento è domani ore 16, quando di nuovo Nessun Luogo sarà lontano. Un saluto da Giampaolo Musumeci.